Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock. Rock FM. Come detto, non vi lasciamo senza il Tour de Force, allora cominciamo dai Donkeys Forever, tribute band ai Rolling Stones, saranno questa sera al Dixieland a Milano e domani sera invece al Jeff Pub, anzi il JJF Pub di Pogliano. Passiamo alla Travis Blues Band che il 31 di maggio sarà a Paderno Dugnano in provincia di Milano nell'Anfiteatro Parco Lago Nord. Blue Oyster Cult il 4 di giugno a Morena, Roma, alla stazione della birra. Tributo ai Rush con gli XYZ al fronte del porto, a Genova il 24 di maggio. Night for the Deaf saranno questa sera a partire dalle 23, Genghis Khan e El Tool in Conchetta, naturalmente a Milano. Passiamo ai Deus che hanno suonato ieri. Rage Against You invece 16 maggio Sori in provincia di Genova al Flera Pub, il 17 maggio a Lugnano di Vico Pisano in provincia di Pisa al Music Street Club. E Blastema saranno invece sabato 24 maggio alle Scimmie in provincia, cioè a Milano. I Pancreas saranno domani sera alla Flog di Firenze, con a seguire il DJ set di Ariel e Max Deriu di Rock FM. Rage Against the Machine, unica data in Italia, 14 giugno a Modena allo Stadio Braglia. Parliamo del Gods of Metal, dal 27 al 29 giugno a Bologna all'Arena Parco Nord. Il 27 giugno con gli Iron Maiden, gli Avenged Sevenfold, i Rose Tattoo, gli Apocalittica, gli Airborne, Lauren Harris e King Crow. Il 28 di giugno con Slayer, Carcass, Meshuggah, Testament, At the Gates. Il 29 di giugno con Judas Priest, I Sir, Think e Malmsteen, Morbid Angel, Obituary, Enslaved, Infernal Poetry e Nightmare. Metallica saranno il 22 di luglio a Bologna, all'Arena Parco Nord. Vi parlo anche dei miei Rockpit, una delle mie tante formazioni, la formazione con la quale faccio un tributo al rock degli anni 90. Saremo infatti il 6 di giugno alla festa della birra di Santo Stefano a Macerata, nel comune di Cascina, per la festa della birra del comune di Cascina in provincia di Pisa, ripeto il 6 di giugno. Tra l'altro, se venite alle 20 facciamo un'altra edocena. Gli Iron Mask, tributo agli Iron Maiden, saranno il 18 di maggio alla festa della birra di Longastrino in provincia di Ferrara. All'Elvis Fan Club di Stagno in provincia di Livorno venerdì 23 maggio invece ci sarà Fabio Lione and the Bad Boys. Passiamo all'Evolution Festival, che si terrà l'11 e il 12 di luglio a Milano all'Idroscalo. L'11 di luglio con Cavallera Conspiracy, Sonata Artica, Dark Tranquility, Evergrey, Corpiclani, Sadis, Dark Lunacy, Logicist. Il 12 di luglio in Flames Opet, Gamma Ray, Death Angel, Pain of Salvation, Novembre, Necro, The Idols Are Dead. La nostra Rock FM Stars Band con il Farewell Tour farà tappa questa sera al Telefilm Festival sul palco esterno di Piazzetta Liberty a Milano, mentre il 24 di maggio saremo all'Area Jens di Pontedera Gello in provincia di Pisa. Il Tour de Force torna domani alle 10.30, anzi no, domani è sabato, no, torna lunedì alle 10.30 con Marco Gravelli. Rock FM. il singolo, come dire, un po' da beccia, un po' da beccioni, non so come dite voi in Italia. Singolo un po' da molliconi, come dire, il singolo quello per beccare dei Queens of the Stone Age. Questa era la loro Make It With You, ultimo singolo tratto da loro era Vulgaris, tra l'altro Queens of the Stone Age che si sono inseriti a sorpresa al posto di Chris Cornell nel bill dell'Heineken Jamming Festival. Cambiamo strada, prendiamo quella dei Jam, questa è Town Called Melis. Abbiamo parlato prima di Chris Cornell, che non sarà all'Heineken Jamming Festival perché è impegnato nella realizzazione di quello che sarà il suo terzo disco, ma abbiamo qua gli Audioslave intanto in sottofondo, che oltre a ricordarmi Rock Pit, che insomma la facciamo, quindi insomma l'appuntamento è per il 6 di giugno a Santo Stefano Macerata in provincia di Pisa, però mi ricorda anche che in fondo il cantante di questa band era Chris Cornell, dico era perché come noto non fa più parte degli Audioslave. grandi Zen Circus, questa era Punk Lullaby. Allora io vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ci sentiamo lunedì, periodo nel quale incominceranno un po' di sorprese, un po' di ospiti all'interno degli studi di Rock FM. Vi ricordo che tra l'altro, se tutto va bene, organizzerò anche una Nottedo che si terrà il 27 di maggio, ossia martedì 27 maggio a partire da mezzanotte, ci sarà ovviamente anche lì da divertirsi, ma l'appuntamento più importante, più imminente, quello di questa sera, per chi potrà raggiungerci in quel di Milano a partire dalle 21, concerto della Rock FM Stars Band in Piazzetta Liberty a Milano, tra Piazza del Duomo e Piazza San Babile, in una traversa di Corso Vittorio Emanuele. Vi lascio in buona compagnia comunque con i Queen e con Giulio Caperdoni. Da Edo Rossi è tutto, a lunedì. Just move on.